avrei provato meno dolore attato al mio nome, anziché cercare risposte ai miei perché e miei come. Resto all'oscuro, meglio non conoscere. Ho visto quanto può far male sapere crescere. Non mi faccio più illusioni, ho preso troppe pacche sulle spalle e calci nei coglioni, troppe delusioni, storie da dimenticare, bocconi amari da mandare giù senza masticare. L'amore è un sentimento estinto, fidarsi troppo per ritrovarsi nel filo spinato di un recinto. Disonestà alla base di un buon rapporto è la realtà che nasconde il marcio che c'è sotto. La fedeltà è un'eccezione, non la regola. Al giorno d'oggi tradimento inevitabile, punto e virgola. Ma è normale, sì, per te è normale chiamarmi ancora quando hai problemi per trattarmi male, pretendendo sempre tutto, quando la smetti? Non puoi averlo sempre se non rispetti. L'uomo scopre il fuoco, la donna come giocarci, la donna scopre il gioco, noi come bruciarci. L'uomo prova dolore, la donna gode, la donna gode se l'uomo soffre. L'uomo scopre il fuoco, la donna come giocarci, la donna scopre il gioco, noi come bruciarci. L'uomo prova dolore, la donna gode se l'uomo soffre. Mi chiedi la tua amicizia quando vale, ne faccio a meno se vieni sulle mie ferite come il sale. Ogni emozione che provo davanti a te come un plotone d'esecuzione, davanti a me sono il bersaglio, ma non aspetto che tu faccia fuoco. Di nuovo, qui dritto al petto, imparerà a convivere con i rimpianti. Vivrai da donna ricca, ma senza i suoi diamanti. Voglio immaginarti felice, ma da quello che si dice non vivi nel paese delle meraviglie come Alice. Mi dovrei meravigliare, mi dici che sei presa e non mi puoi chiamare. La tua persona è tossica, secondo un punk che ascolta musica classica, sempre fuori luogo, io non ti biasimo. Sei come un crisantemo regalato ad un battesimo, assolutamente da evitare, come un bagliaccio nella gabbia di un leone senza il domatore. L'uomo scopre il fuoco, la donna come giocarci, la donna scopre il gioco, noi come bruciarci. L'uomo prova dolore, la donna gode se l'uomo soffre. L'uomo scopre il fuoco, la donna come giocarci, la donna scopre il gioco, noi come bruciarci. L'uomo prova dolore, la donna gode se l'uomo soffre. Mi scuso di averti illuso, ma in un rapporto incluso il libretto delle distruzioni per l'uso. All'ingresso del mio cuore c'era l'avviso: se tradisci non c'è santo che tenga fuori dal paradiso. Passa dal purgatorio e giù fino all'inferno, non aspettarmi, nel limbo aspetterai in eterno. Sono libero, nonostante le catene che mi legavano a te, va tutto bene. Le lacrime solcano le rughe nel duro lavoro di strapparmi dalla carne sanguisughe. La tua tenacia ha dato i frutti, facci un frullato e brinda alla mia salute prima che ti insulti. Le tue cazzate nascoste dietro il tuo entusiasmo, io ti conosco bene, sei finta come il tuo orgasmo. Aspetti il mio momento, il fuoco brucia dentro anche se sembra spento. Divampero bruciando chi giocava, parola di scout, sei circondata dalle fiamme, per me sei out. L'uomo scopre il fuoco, la donna come giocarci, la donna scopre il gioco, noi come bruciarci. L'uomo prova dolore, la donna gode se l'uomo soffre. L'uomo scopre il fuoco, la donna come giocarci, la donna scopre il gioco, noi come bruciarci. L'uomo prova dolore, la donna gode se l'uomo soffre.